c'è intorno. Come nero il cielo vedrai, e lo sai, che nasca un sole oppure no, siamo vestiti di aria greve oscura. Siamo toccati dalla paura, siamo dentro un mondo fermo a attendere una vita nuova da